Sveglia. È sempre un argomento interessante. No, io ne ho diversi libri di antenne, ce ne sono migliaia di sistemi di antenne, di cose. È sempre stata la mia passione le antenne. Le filare, diciamo, non ho esperienza, però su altri tipi di cose ne ho anche costruito, anche con lineari, con due dipoli chiusi, affiancati, sovrapposti, non affiancati, ho fatto gli accoppiatori, ho fatto filtri, come si chiama, passo a basso, trappole, eccetera, eccetera. Ho proprio fatto a livello artigianale, mi ho tolto qualche soddisfazione, dai. Sperimentare, io ne ho fatto tantissime antenne, molte sono anche installate qua, quindi si fa quel che si può. Questa mi serve per un utilizzo particolare e quindi sto un po' ripassando le cose del passato. E anche Natalino qualche antenna già sarà fatta lui, non è vero Natalino? Sì, più di una. Ho costruito anche questa che mi ho comprato, cioè tutto il circuito, perché e non l'ho piazzata perché non avevo la canna da pesca adatta, se no me la stavo facendo perché era troppo lunga e non ne vendevano. Ma quello è dell'albero di Natale. E ce l'ho il circuito in campagna, tutto l'ambaradam. Ma tu devi installare una game master, Natalia, o che cosa? Ehi, ho già preso le misure, tutto. Pronta a piazzare. L'altra bibanda è lo stesso, è pronta a piazzare. Puoi fare, se non vuoi fare grosse pretese come ho fatto io, nel palo dove poi metterai sopra la game master e uso uno di quelle pippe che si usano per fissare l'antenna parabolica, io l'ho fissata di lì e ci ho messo, da una parte gli ho messo la multibanda per il ricevitore e dall'altra parte gli ho messo la bibanda per le VLU e le U. E dico, e mi ho tolto anche la soddisfazione l'altra volta di quel satellite che è passato, siamo riusciti a farci sentire, non io, almeno mi ha sentito Marco per un attimino. Io ho capito. L'antenna per il satellite l'avevamo fatta con Antonio di Monteoro, te l'ho detto che ha parlato con la ISS. Quando si è trasferito all'estero, ho sentito, ha mollato tutto, è andato in pensione e se n'è andato da un'altra parte dove si sta molto meglio con poco. Chi, Roberto? Quello radiamatore. Ah, boh, non ho capito chi però. Ma vabbè, no, ma... Di Monteoro, il zoometro. Che faccio valere le conte che lavorava in comune. Ehi. Ah, sei andato fuori. E allora? Perché dice con la pensione che prende sta da una baboli, invece qua mi la magna lo Stato. E che posto è? E so che all'estero, non so il posto preciso dove è andato, però so che è andato via da qua. Io ero rimasto che abitava lì a Santoso, lasciava ancora le antenne. E anch'io ero rimasto così, solo che poi mi hanno detto che se n'era andato via. Beh, se uno guarda sempre, e ce n'è tanta gente che fa così, va in pensione e poi se ne va fuori, perché vive meglio. Ma non sai quanta gente conosco, voi neanche ve lo immaginate, in Portogallo, in Albania, tanta gente che se n'è andata, si è aperta attività e si è fatto d'oro. Conosco una persona, non faccio nome e cognome, ma quello è multimilionario. E anche Salvatore, se sarebbe stato lontano, si era aperto un negozio di artigianato, te la vai? Sì, vabbè, ma Salvatore è sottodipendente, aveva fatto prodotti, non artigianato, di culinari, diciamo, alimentari della Sardegna, però non c'era tanto il tanto, dice deve fare qualcosa adesso, ci sentiamo spesso con Salvatore, poi l'hanno mollato, però di lì è molto, diciamo, a tenere un negozio aperto è meglio lavorare su internet, per dire, lui ti dice, mi serve salsiccia, formaggi e cosa vuoi, lo prende, lo ordina e te lo fa spedire. Ho capito, sì, ma faceva così, sì, mi ricordo, aveva, volevo dire, prodotti sardi, aveva roba così, alimentari i sardi, salsicce, pane carasau, tutta questa roba qua, ma se c'è qualche sardo lì magari lo compra, capito, questa roba qua, c'è qualcuno magari che la vuole anche assaggiare e provare. Una volta che la prova, proprio non la volano più la roba assata. Sì, no, assolutamente, ma anche gente del posto, austriaci, non solo i sardi già ce lo mandano per conto loro, i pacchi già ce li fanno mandare loro. Però quando aveva aperto il negozio, fate come ha chiuso, no, sì, sta andando bene, però siccome sono merci deteriorabili, non è che ti puoi fare scorte. Alla fine ha detto, cacchio, faccio prima a ordinarmela, perché mi servono 10 cose di salsiccia, 10 di salsiccia, 4 kg di pecorino, poi pane carrasuale, quello che mi serve. Arrivano i corrieri, dice, in 2 giorni c'ho la roba qua, e non sto a tenere il magazzino aperto, a spendere affitto, né nulla. Quando mi serve, sanno il punto di riferimento, lui c'ha un coso su internet, mi ha detto il figlio, o chi per lui, adesso mi ricordo. Ah, capo, lo fa la vita su internet, ho capito. E vabbè, allora mi aveva detto che aveva provato a aprirlo, mi aveva mandato anche le fotografie. Sì, no, l'ha aperto, c'ha un bel negozietto, con un sacco, però alla fine ha detto, cacchio, cosa devo mettere? Vetrina di cose, non stai vendendo televisori, lavatrici, sono cose che hanno anche delle scadenze, non puoi tenerti tanta roba in magazzino, perché si deteriora, se non la vendi perdi. Invece ha detto, facciamo così, ma anche un amico carissimo, che lui vende hi-fi, molto famoso a Sassari, ha denunciato, ha detto, è inutile che mi fa, io lavoro su internet, c'ho un appoggio, dove c'è un negozio, un angolino, una tarfetta, io sono connesso a internet, metto, vendo, guardate, poi c'è l'amplificatore Yamaha, lo metto di lì, molto usato, lui vende, oppure c'ha tanti amicizie anche con me, lo stesso mi ha detto, se vuoi vendere roba, mi ha chiamato, io sto vendendo della roba tempo fa, mi ha detto, guarda, ancora le stai vendendo quelle casse, ho detto, no, le ho già date, e lui, per dire, c'ha una serie di amici appassionati, quando ti serve qualcosa, glielo chiedi a lui, te lo busta, oppure se hai roba da vendere, lui te lo fa vendere e si prende una percentuale, ed è il sistema migliore quello, perché su quei campi lì c'è troppa concorrenza e costano anche tenere aperta un'attività. Lui dice, mi serve un amplificatore della Yamaha, mi metto d'accordo con il fornitore, gli do il prezzo alla persona che me l'ha chiesto, se gli va bene glielo ordino, se non nulla. Ma chi è quello che c'è un negozio in via Nizza senza fare nulla? Non ho capito. Quello che aveva un negozio in via Nizza giù, così con via Enzo. No, quello Enzo, il figlio c'è mio fratello, no, quello non c'entra niente, è peccato che l'abbia chiuso quell'attività, vabbè, sta facendo altro. E lui andava fuori anche in Olanda a caricare furgone pieno di roba. Poi ho detto, ma perché l'hai chiuso? Anche i dischi. Vabbè, lui è sempre stato un po' così, per dire, oggi ci si viene un'idea e ce la fa. Dopo 6 mesi cambia idea, molla tutto. Infatti, detto che c'è un'attività che è molto apprezzata, perché sull'hi-fi vinta, cioè cose del genere, c'è sempre mercato. Lui li pagava 10 e li vendeva 40, per dire, c'era anche grossi margini. Eppure adesso sta facendo altre cose, piccolo impresario, ha fatto anche manutentore di punti ripetitori, broccati, eccetera, eccetera. No, sto parlando di un negozio abbastanza famoso, che non voglio dire qua, abbastanza, è ancora presente a Sassari comunque. Ma comunque io lì compravo un po' di roba, e avevo comprato piatti Marans, due piatti Texans, l'amplificatore Marans e poi un sacco di roba. Poi avevo dato a mio nipote, e mio nipote se l'ha venduto una gazzata, guarda, se lo sapevo me l'avrei ripreso io. Avevo dato a mio nipote perché aveva la passione di fare il DJ, si aveva preso tutto, la console, tutto quanto. Ma c'aveva dei piatti Texas che erano bellissimi. Sì, quelli che usavano, c'erano anche i 1200, gli SL1200 della Texas. I 1200 sono i grigi, i 1210 sono i neri. Cioè, è il classico, il piatto più venduto al mondo, tutti i DJ al mondo. Adesso ci sono le console digitali, diciamo, ce l'ho anche io con le, ci metti i file e fai tutto quello che vuoi, ma è troppo facile così. Il bello era prima col vinile, eccetera. Ma poi lui aveva preso blocchi, migliaia di dischi, che poi la maggior parte li ha tenuti in questa cantina, c'è stata una perdita, un'altra in cantina, in questo garage, dal piano di sopra c'è stata una perdita, ha rovinato tutte le copertine, ha perso migliaia e migliaia di euro, sono andati in causa, poi non so come sia andata a finire. Infatti ha detto, mi vieni, caricatene un po', ha detto, ne ho già tante, non mi interessa. Poi senza copertine i dischi non è. Sì, ma l'ha detto anche a me, scendi già, scendi giù in cantina e se li scendi quelli che vuoi, te li do una gazzata, prenditeli perché si è bagnato tutto un casino. E niente, c'aveva anche batterie, c'aveva tutto, lavorava bene quello lì. A proposito di vinile, roba, mi hanno regalato i miei figli un disco in vinile per Natale. Mi hanno regalato quello dove c'erano tutti praticamente i film di Dario Argento, Fenomena, Profondo Rosso, tutti quelli lì. Però ce l'avevo già, e quindi sono tornato alle messaggerie e me l'ho cambiato. E mi ho preso un disco di De André e rimane invece che nero, bianco, bianco, ed è più grosso dei dischi normali. E cosa hai preso di De André? Cosa hai preso di De André? È un misto di canzoni dove c'è... adesso non mi ricordo che canzoni ci sono, ma sono conosciute, dai, sono tutte canzoni conosciute, belle, e niente, ma ne ho diversi, c'ho De André, c'ho Burattino senza fili di Bernato, tutte le canzoni, c'ho Balla, ce ne ho tanti di cantautori. Cioè, gli italiani, diciamo, i principali ce li ho tutti, io ho più che altro musica internazionale, ho preso in blocco da una radio, no, di titoli voce, avrò 3.000 titoli, non lo so, quelli che ti davano promozionali dalle radio, per dire, sullo stesso disco trovi 10 artisti diversi, sono quelli, quando tu fanno, come si chiama, i dischi promo si chiamano, per dire, ci sono i Police, e poi c'è una Police ti trovi, a tipo di De André, cose che non c'entrano niente, sono delle compilation di musica varia, e io ho migliaia di titoli di quelli lì, a parte i dischi, quelli che ho comprato io, quelli originali, quelli che mi piacevano, me li ho comprati e le cose. Di De André io ho una raccolta CD di altissima qualità, 3 CD sono, rimasterizzati però senza filtri, senza niente, se tu li ascolti dici è un'altra persona, la voce, la moglie l'ha voluto apposta così, senza nessun filtro, perché ha detto la voce di mio marito non è quella che è in tutti i dischi, allora se li ha fatti rimasterizzare senza i filtri, senza gli effetti, è come che tu senti la voce naturale, senza, perché normalmente usano sempre filtri, se c'è un po' troppo di acuti o un po' troppo bassi, se li correggono quando fanno i campionamenti eccetera, l'ha voluto tutto, tu hai sentito la musica, io me li ho tutti riascoltati, e ti dico un'altra cosa, con un impianto discreto, diciamo, dai, di qualità, e ti riesci a sentire un diverso, ho riapprezzato De André, perché De André era un po' così, un po' triste, canzoni, quando ho sentito la voce sua, raschiata, originale, ho detto, cacchio, veramente bravo, e belle canzoni. E De André, più che una cantante, era un poeta, cioè, veramente è stato un grande cantante, faceva poesia, non canzoni. Vabbè, comunque a me piacciono tanto i cantautori, quindi ce li ho un po' tutti, capito? Tra l'altro prima andavo le ultime domeniche, l'ultima domenica del mese andavo dove vai anche tu, qualche volta ci siamo trovati, nel mercatino dell'usato, però costa un sacco di soldi i dischi lì. Si fanno in piazza d'Italia l'ultima del mese e il primo del mese, però sono almeno 2 mesi che non lo fanno, perché c'era sempre, anzi 3 mesi, sempre maltempo, da settembre l'ultima volta che l'hanno fatti, però se tu vuoi trovare i dischi a buon prezzo vai sopra OVS, dove c'è la Conad di Via Grassi, dai, sopra di lì c'è Michele, c'è un amico mio, e lui c'ha un sacco di dischi, c'ha bella roba anche a prezzi molto molto, anche a 1 euro trovi dischi a 2 euro, diciamo, magari l'LP, doppio LP, magari dei Beatles, quello magari lo paghi 10 euro per dire, quelli più, però c'ha un sacco di roba, oppure c'è quell'altro che ho comprato un po' di roba lo stesso in via Coso, aiutami, in via Cesare Ronero Battisti, di lì c'è quello, come si chiama, non mi viene il nome, ma ce ne sono possibilità di trovare, perché al mercatino trovi il fighettino, ti fa pagare il disco 20 euro per dire, lo stesso disco lo trovi a 5 euro, è vero, lo fa pagare di più di quanto costava dall'originale. Sì, sì, è vero, ma io questo di OVS ti ho sentito a te parlare, ma non sono mai andato, qualche giorno ci faccio un salto e vedo un po', perché ogni tanto mi piace, c'è un bel piatto Sony, un piatto serio, dai, tipo quello che c'è di Gigo, la luce, la frizione, tutto quanto, e niente, e poi c'è un impianto della Panasonic, che si sente abbastanza bene, se alzi vibra tutto, tanto da quanto è forte, ma non lo uso mai a alta potenza. L'unica cosa che c'è è che il piatto io l'ho aggiunto, perché l'impianto mio è un cubo che legge 5 CD, c'ha mangiacassette e tutto quanto, e io l'ho attaccato all'entrata UX, l'ho attaccato il piatto, e gli ho messo un piccolo amplificatore che vendeva la GBC, che è grande quanto tipo una scatola di cilindri, la stessa cosa, piccolo diciamo, si attacca, l'ho attaccato dietro, non si vede nulla e va veramente bene. E infatti con l'AUX ci voleva almeno 200 mV per pilotare l'amplificatore, l'uscita Phonos normalmente sono 30 mV, anche di meno, per cui ci voleva un preamplificatore per alzarti leggermente il livello, portarlo ai 200 mV, a meno che non c'è l'amplificatore con l'ingresso fono, solo così riesci a farlo. No, no, le impianti che ho io hanno direttamente l'ingresso fono, c'è uno di questi cassoni che stai dicendo tu che ci puoi mettere, ti converte in digitale, se ci metti un giradischi, c'ho il giradischi incorporato alla cassetta, te lo converte in digitale, te lo puoi attaccare al computer, te lo metti su chiavetta, qualunque cosa. C'è una cosa presente, ce l'ho, vabbè, me l'hanno dato il rimasto, non l'ho mai neanche acceso, c'è anche le casse incorporate e tutto, non l'ho mai usato, l'avevo preso come premio, non mi ricordo da che cosa, avevo aggiunto qualcosa e ce l'ho ancora, da come è arrivato è rimasto, non l'ho mai neanche acceso. E poi vabbè, c'ho la console io, se ti vuoi divertire ci metti pennine e fai tutto, e poi in macchina ogni tanto, adesso sono da un po', mi metto un po' di roba, di musica anni 70 e 80, il periodo d'oro della disco music, dico, e poi metto tutte le canzoni di tutti i generi, ma dico italiani come hai detto tu, solo cantautori, il resto raramente trovo qualcosa che mi piaccia, ma cantautori di un certo livello, perché se parliamo di Vasco Rossi per me non è un cantautore commerciale, parliamo di cantautori intendo come hai detto tu di André, poeti, Branduardi, Bennato e Lucio Dalla, quelli sono cantautori, non parliamo di altre cose, perché adesso basta che uno scriva tre fesserie e cantautore, una cosa è scrivere musica e comporla soprattutto, oltre che scriverla, e cioè, sono pochi che la sanno fare. Vediamo se Gianfranco c'è ancora. Sì, ci sono, ma sono impegnato. Vabbè, tempo ci vuole, perché io, vabbè, adesso un po' di più di tempo ce l'ho, ma prima andando a lavorare tutto quanto, cosa facevo? Mi ascoltavo le canzoni. La domenica me l'accendevo, quando per dire facevo le cose, me l'accendevo e mi ascoltavo la musica, anche facendomi il bagno, mettevo un non play e mi ascoltavo la musica. Però non sai che cosa c'è di questo... di questo disco, ho notato una cosa, che finite le canzoni non è che si ferma, la puntina va avanti e praticamente va fuori del disco. Non ha il ritorno automatico, e poi stai attento perché poi ti rovina la puntina. Come finisce il disco lo devi sollevare, perché ci sono i giradischi manuali, completamente manuali, devi fare tutto tu, diciamo quelli di altissimo pregio livello sono totalmente manuali, trasmissione a cinghia eccetera eccetera. Poi ci sono i semiautomatici, come finisce il disco ritorna indietro, e poi ci sono totalmente automatici che tu li metti, lo abbassi e lui si sceglie anche la traccia tipo regolare, cioè sono di tutti i tipi di giradischi, ne ho diversi, e quelli che sto utilizzando adesso sono i famosi Technics 1200 e basta, quelli che quando l'avevamo preso erano due ruderi, lo sai, vuol dire tutti brutti, sporchi eccetera, li ho rifatti a nuovo, li ho raschiati a zero, riverniciato, messe le serigrafie nuove, cambiato i tasti di accensione e spegnimento, la luce, uno slider, ne ho preso due per sicurezza, lo slider per la velocità, uno l'ho sostituito perché era un po' duro, non regolava bene, era un po' consumato, e sono nuovi fiammati, li ho comprati con per chi nuovi, e sono come li vedi dal negozio. Quelli che ha dato Maurizio, mio nipote, erano nuovi, lui li ha venduti per comprarsi una console CD, cosa che io non avrei mai fatto, io preferisco sempre i piatti invece che i CD, con i CD non c'è gusto, i piatti erano un'altra cosa, io adesso per dire il piatto, il disco lo faccio partire facendolo girare, arrivati al punto dove parte, li do, li faccio andare la frizione, buco e parte. Cos'è, la cinghia o trazione diretta? No, trazione ingranaggi. Di trazione diretta, sì, quello lì l'avevo preso, guarda, da Cineradio, quando proprio stava quasi per chiudere, l'avevo pagato allora 480.000 lire. Che cos'è, che piatto è? È un piatto della Sassoni. E sì, sono ottimi prodotti, dai. Molto, molto buoni, diciamo. Quelli commerciali sono ottimi, a massimi livelli, dai. No, io di piatti ho quei due della Tecnis, poi ho due imitazioni del 1002, sono identici, precise. E devo dire, per c'hanno anche una cosina in più della Tecnis, perché la Tecnis la luce quando aumenta la velocità o la diminuisce rimane fissa, mentre questo qua cambiava di colore. C'è sempre attrazione diretta e più c'ho un piatto della Tisch totalmente automatico, questo con regolazione di velocità, però non la slider. L'avevo preso da Manconi a Olbia, era andato perché c'aveva delle belle cose lui quando stava svendendo, svuotava tutta la roba, e poi c'avevo, non so se c'era ancora, un altro piatto della Technics, però a trazione a cinghia, lo stesso, un piatto semplice, economico, ma ce l'aveva da fare e basta. E poi ce n'ho altri di altre roba vecchia, però no, non le cerchiamo neanche quelle. Ma questo va, ce l'ho tantissimi anni e va molto bene, va molto bene. Ti parlo di Cineradio, non so se te lo ricordi, avevo comprato un baracchino lì, un portatile e quel piatto lì, quando stava per chiudere. Ha detto, questo piatto è superiore a tanti altri, questo qui è professionale come piatto, un bel piatto veramente. Me l'ha fatto sentire suonare due o tre piatti, mi ha fatto sentire che questo qui era l'unico che andava bene, come proprio girava bene, tutto, cioè si vedeva che era un piatto ad alto livello, gli altri costavano molto meno, questo qui costava di più, però c'è tutto, c'è la luce che va sul disco, eccetera eccetera, c'è tutto quanto. Quei Tecnis che avevo preso addirittura dovevano essere di qualche DJ o di qualche radio, perché avevano, dove si mette il disco, non so se mi spiego, di solito è in gomma, no? Per riparare il disco dal piatto. E questo qui ce l'aveva in mochetta. Sì, te che si vede, infatti li ho messi così, per fare lo stress, ci mettevi il monotalco sotto per farlo girare, vabbè, l'ho tolto il monotalco, naturalmente l'ho tutto pulito, ma i DJ prima facevano lo stress, andavano avanti e indietro a crepare le puntine. No, quello non lo faccio assolutamente, perché se no ci rimetti la puntina. Le puntine che ho io costano un sacco di soldi, sono della Shure e costano un po' di soldini, per cui faccio solo ascolto e anche mixaggi, vabbè, però senza fare stress, fa il passaggio normale e basta. C'è l'accensione velocissima, ci impiega 0,1 secondo di tempo di partenza, pesa 10 kg il piatto, tutto in alluminio, non è un piattino di bicicletta. Oh, vabbè, ma io mi sono fatto questa domanda, prima andavo da Cineradio a prendere le puntine, ma se adesso mi dovesse consumare, se dovesse consumare la puntina, dove cavolo vado a prenderla? A GBC ce ne ha quante ne vuoi, anche Fusano, soprattutto GBC, stiamo parlando solo la puntina, se poi con la testina completa è molto più complicata la cosa, vabbè, ne puoi adattare diverse, non c'è problema. Io ci ho messo le Shure perché si usavano, no scusa, le Shure erano all'altro, le Phantom c'ho io, le Shure sono sull'altro piatto, perché le 680L si montavano, erano quelle più robuste con un peso superiore, naturalmente non è di altissima qualità come prestazione, vabbè, a voi magari va più che bene, però se uno deve fare degli ascolti di altissimo livello non usa quelle testine lì, quelle puntine, perché le tanto sono calibrate per 3 grammi, normalmente una testina di valore sono 0,5, 0,6, 0,7, dai, meno di un grammo, sono molto più coniche, diciamo, la punta è più conica, diciamo, rispetto a quelle lì, sono per uso gravoso, infatti sono rinforzato anche lo shell, diciamo, dove è fissata la puntina, però dipende tutto da quello che deve fare una persona. Sì, vabbè, ascoltare musica decentemente, non mi piace ascoltare la musica tipo matracca, io l'ascolto, c'ho delle belle casse da 200 watt, insomma, nel mio piccolo ascolto bene, diciamo. Poi questo stereo che c'ho io si può fare tutto, si possono cambiare tutti i tipi di musica, mettere jazz, stereo, equalizzatore, c'è un sacco di roba, capito? Lo puoi regolare come vuoi. No, vabbè, di attrezzatura, grazie a Dio, già ne ho. C'ho anche amplificatori senza usare, figurati. Messi da parte, c'ho una bella bestia, mi hanno dato Giovanni Bracco. Lui, mamma mia, quello che c'aveva di roba, quello lì, ma non per parlare male, ma cacchio come trattava la roba. C'aveva, io me l'ho preso il tecnico, ho detto prima che faccia fine brutta, infatti me l'ha quasi regalato a prezzo di coso, un tecnico e una bella bestiolina, ci ha dichiarato 110 o 120 per canale, ma ne dà più di 140, c'ho la prova su Stereo Play, l'hanno mandato tanto, un buonissimo amplificatore dell'epoca, stiamo parlando, adesso c'è molto di meglio, però all'epoca costava più di 1 milione quell'amplificatore. Poi ce n'è un altro che è una bestia, peserà 30 kg della Kenwood degli anni 70, questo si chiama compositore, Kenwood compositore, è quanto, cioè presente tu un 440, ci metti 3 440, uno a fianco all'altro, il doppio di altezza, è una cosa enorme, infatti e fa tutto quello lì c'ha generatore di ritmi, ecco, cosa cavolo può attaccare, c'ha il comando a pedale per attaccare i microfoni, per gli strumenti, fa tutto quelle cose possibili, e più è un sinto amplificatore, c'è anche la radio, peserà 30 kg, l'avevo trovato in un mercatino ad Alghero, l'ho preso al volo, è enorme, guarda, non ci trae nessun mobile perché è troppo grande, infatti l'ho messo da qua, lo usavo così, ma è troppo grande, infatti l'ho preso perché era un peccato lasciarlo lì, cioè proprio l'ho messo su internet, di gente che se lo voleva comprare, ha detto lo vende, no, questo non si vende, con il suo manuale originale, il comando a pedale, se doveva attaccare chitarre, strumenti, c'ha tutto, ecco, riverberi, generatore di ritmi, di così, tipo certe tastiere ci sono le basi, la salsa, il merengue, tutto, e fa così, e più c'ha il timer di accensione, di spegnimento, è il sinto amplificatore, è una bella bestia. E quanto ti è venuto questo amplificatore? Guarda, non ti vorrei dire una fesseria, ma forse 80 euro, ma è una cosa che ne vale minimo 500, poi se trovi gli appassionati è una cosa rara, ne hanno portato pochi in Italia, infatti io quando l'ho pubblicato, io sono iscritto in un gruppo, ne vedi di gente chiedendo se lo vendevo, dove l'ho preso, i guai, è proprio molto molto apprezzato. E beh, ti spara a prezzi esorbitanti, tanto non hai cosa dire, fa, se non poi non li utilizzi, mi è solo per avere. No, io sono geloso delle mie cose, se è una cosa che ce l'ho 2 o 3 volte la posso, ma quando mi compro una cosa, adesso io ho un apparecchio, per dirti, sempre mi ha dato Giovanni Bracco, che lui non so dove sta, che non l'ha recuperato, ne aveva 2, lui mi ha portato, lui c'ha una campagna in un paese ed è pieno di roba, ha detto mi prenditi quello che vuoi, fai qua, io ne avevo anche vergogna, pila quella, me l'ha dato, alla fine non sapevo neanche che cosa era, della, non mi ricordo se era Telefunken, no, che cazzo di marchio era, o è che tedesco comunque, non sapevo che cosa è, l'ho messo su internet, tu devi vedere la gente che mi ha scritto, mi scrive questo qua, mi ha spiegato che cos'era, un apparecchio per le telescriventi, è una cosa enorme, mi pesa, mi ha detto se me lo vendi anche a un prezzo simbolico ci serve per il nostro museo, e ho detto no, io non vendo niente e non te lo do, perché è una cosa che mi è piaciuta, me la sono presa, posso chiedere a lui se ne ha un'altra, eventualmente te lo faccio avere, però a darlo, io so tante di queste cose vinte, se tu mi dai cosa te ne vai, però sono cose che mi piacciono, non me le tengo. Idem, anche io nella macchina, come hai detto tu, c'ho la pennina con tutte le musiche anni 80, c'ho medley anni 80 dove ci sono tutte le musiche da discoteca, in più questa pennina ci ho messo canzoni di adesso, un po' un miscuglio, là. Di modo che se fai viaggi lunghi non ti annui. Sì, no, anche io l'altro giorno sono andato a Momogolo a prendere il traliccio, era un po' che non la sentivo, però io mi stufo subito, quando faccio una cosa ascolto 2 o 3 volte e poi finita, allora devo prenderne altre, ci sono mi pare 350 dischi, ma tutti selezionati, perché quando sentivo una canzone, io ho quel sistema, quell'applicazione, come si chiama, non mi ricordo, sul cellulare, non mi ricordo come si chiama, vabbè, forse mi avrei capito, senti una canzone, schiacci il tasto e ti dice che canzone è, quando sento una canzone che non mi ricordo il titolo, che piaceva a me dell'epoca mia, io subito prendo, me la scarico da internet e me la metto nel coso, e poi mi sto mettendo tutte quelle con la velocità che c'è il tempo, per dire, se devi mixare sai anche le battute e tutto, non stai neanche a perdere tempo, Shazam si chiama quel programma che ti dice la musica. Sì, io invece sono iscritto in un programma dove si canta, Star Maker si chiama. No, questo per dire, tu ti stai ascoltando la radio in macchina, senti un un pezzo nuovo, moderno, di tutti, di qualunque epoca. Tu attacchi questo, in una frazione del secondo ti dice il titolo della canzone, ti manda, te la fa sentire, il video, se c'è il video, non è che ci sono sempre il video, anche la canzone sassarese, di aborigena, indiana, di qualunque canzone del mondo, ci sono milioni e milioni di titoli. E io, quando mi serve quella lì, poi c'è una specie di libreria nel cellulare, poi vado a casa, quando ho tempo, me la scarico e me la metto nella pennina, ma ho messo tante canzoni che non mi ricordavo i titoli. Adesso la bellezza dell'internet è quello lì, se devi fare una compilation musicale, no? Ci metti un attimo, ti scrivi il titolo, tac, vai, cosa, e te la scarica, MP3, non so come si chiama, e ti prendi qualunque canzone, è bello, ti fa le compilation. Poi io, musica disco, sono abbastanza aggiornato di quel periodo lì, mi puoi sentire, quando parliamo di canzoni, a meno che non mi vai a dire una canzone sconosciuta, però il 90% di tutte le canzoni degli anni 70 e anni 80 e quasi inizio anni 90, 90% le conosco. E io lo stesso. Io, a me piacevano tanto, andavo anche a radio, come si chiama, a radio popolare, eccetera, eccetera, quindi un po' già ne ho visto dischi e cose varie. Andavo anche, come si cavolo si chiamava, radio amica, eccetera, eccetera. Un po' giravo là. No, io vabbè, le conoscevo tutti perché erano quasi tutti amici, conoscenti, tutte, ti dico la storia dalla radio e dalla televisione di quasi tutta la Sardegna, diciamo di Sassari, di tutto, dagli anni 70, quando hanno iniziato, 77, le prime 76, in cui ti dico vita e miracoli, fino a quando adesso qualcuno ha chiuso, adesso ha chiuso, per dire, Telegia, Antenna 1 hanno chiuso perché costa troppo trasmettere, il canone è troppo alto, la stanno trasmettendo via internet e come web TV, però c'ho tutta la roba, io ce l'avevo una piccola stazione radio, eccetera, eccetera, c'ho tutte le cose, prima si andava su cassette, su bobina, le non stop, ce li ho tutti, c'ho pacchi di cose, di non stop, tutti gli stacchetti, c'ho registrato la bobina, che lo stesso quello vale una barca di soldi, però me lo tengo, me l'avevano chiesto, dai dammi quello, ti do quello, autoreverso, ho detto no, no, quello che me l'aveva venduto, lo rivoleva, se lo voleva riprendere, mi ha detto ti do il modello nuovo della CAI, autoreverso, ho detto no, no, il mio quello è un quadri, 4 tracce, trazione diretta, 3 motori, servoassistito, tutto digitale, nel senso, c'ha tutto, ed è un Philips semiprofessionale, pesa 25 kg, una bestia di cosa, con le bobine a 26, 4 velocità, è una cosa, fa delle registrazioni che tu non senti la differenza, da disco a coso, a cassetta, è una cosa allucinante, sono bobine grandi, c'ha un motore che dà paura. Conosco tutte queste cose, sì, io ho visto le bobine, le mettevano negli intervalli, quando non c'erano i DJ, mettevano la bobina, la facevano andare e trasmetteva musica tutta la sera. Sì, sì, ma io poi avevo preso, io sono andato a Furia anche da altre parti a cercare attrezzature, trasmettitori, sono stato uno delle primissime che aveva il codificatore stereo, quando ancora ce l'avevano forse due radio a Sassari, ce l'avevano la stereofonia, neanche la RAI ancora andava in stereo, io c'avevo il coso, quello di Nuova Elettronica, l'encoder stereo di Nuova Elettronica, poi avevo acquistato da una radio di Posada, sono andato da questo, avevo preso multilettore di cassette, 10 cassette, perché tutti usavano la Sony o le bobine di 10 cassette, io ero della Davoli, una bestia di apparecchio, che poi l'avevo data un'altra, ricordi tu, non so se l'hai conosciuta, quella radio 92, radio Antenna 2000, non so se l'hai conosciuta. Voglia, sì sì, Radio Antenna 2000, ci trasmetteva Marco Sound International The Power DJ. No, no, ti stai confondendo, mai andato Marco, Radio Venere, Radio Giovane, sì, Radio Zero, quella lì era di Leonardo Zanza e del fratello, quella radio lì che poi tra l'altro ha chiuso, forse perché non riuscivano a togliere le spese, c'è ancora il ponte all'imbarco, 92, sì, no, no, non ha mai trasmesso lì. Radio Antenna 2000, comunque, ma ricordo, però se mi sta confondendo, poi la Radio Antenna 2000 l'ho sentita 150.000 volte, ho registrato canzoni da quella radio, mi piaceva un bel quella radio. Sì, sì, in diretta non metteva poco e niente, all'inizio hanno trasmesso, poi era solo non so, no, no, niente da dire, conoscevamo bene, gli ho dato la 10 cassette, le avevo date a lui, poi avevamo fatto degli scambi, eccetera, altre cose, perché non è truvi, di quelle lì erano apparecchi molto, molto robusti, tutto meccanico, era un orologio dentro, e non le trovi, adesso sono agli albori, poi adesso mi è capitato un amico, lo stesso che lui vende, di queste cose mi ha dato della, aspetta, non mi ricordo se della, forse dischi della Sony, un multilettore della Sony, ci stanno 300 CD dentro, è una cosa tipo lavastoviglie, non so se quando metti piatti nella lavastoviglie, ce ne stanno 300, tutto computerizzato, e me l'ha detto a un prezzo ridicolo. Ammo di jukebox. Ma tutto, cioè, a non averla ai tempi delle radio, una cosa del genere, ci metti 300 CD, puoi importare per dire CD numero 5, 20, 31, tutto, c'è la programmazione, oppure te li fai uno dietro l'altro, poi puoi scegliere il coso casuale, oppure puoi partire dall'ultimo, tutto digitale. Me l'ha data a un prezzo ridicolo, ce l'aveva di dire, ma lo sai data, io portatelo via, e me l'ha data a un prezzo simbolico. E come grandezza molto grande? Sì, abbastanza grande, diciamo, cosa ti posso dire? C'hai presente il 4,40, una volta e mezza il 4,40 è il doppio di altezza. Ma non facciamo molto la visita a questa roba. Io ne ho spazio, grazie a Dio sono di spazio, però il topo del topo è il Marantz, l'amplificatore Marantz quadrifonico, quello nemmeno se mi dici te vuoi 5.000 euro non te lo do. Anche mio cognato ce l'ha quello lì, il Marantz, le casse Jensen ci aveva, l'amplificatore Marantz da 150 watt mi pare che fosse, i piatti Technis, ci aveva questo impianto fatto a pizzi da. Allora questo Marantz, prima di tutto il quadrifonico, la serie con i vomiter azzurri, che a Sassari ne è arrivato uno solo, era promo, l'aveva portato Paolotto, era concessionario della Marantz, eravamo amici, noi quando avevamo le scoperte eccetera eccetera, me l'aveva dato lui, lo dovevamo dire, alla fine l'aveva preso mio fratello, anzi non l'ho preso io, l'aveva dato a poco perché non lo poteva rivendere, e poi mio fratello l'ha dato a me, ci ha dato un accordo, cioè gliel'ho pagato io, ce l'ho ancora, ma tu devi sentire suonare con l'amplificatore, una cosa da paura. Se va a costruirlo un amplificatore del genere, non so quanti migliaia di euro ci vorrà, pesa 20 kg, c'ha tutte le cose possibili, immagina l'attacco anche per l'oscilloscopio, puoi mettere la scheda di decodifica di non so cosa cavolo, c'ha una marea di roba, ed era il topo di gamma della cosa, della Marantz, era il quadrifonico, quello grosso, c'ho le prove su suono ed è una cosa da paura, e c'ha attualmente ancora un bellissimo suono. Naturalmente se va a costruirlo è inconcepibile perché c'ha una marea di componenti, sarebbe inconcepibile, costerebbe migliaia e migliaia di euro, una cosa del genere, ed è quello lo stesso bel apparato. Poi sopra di quello c'era la linea finale e preamplificatore separato, era la linea con gli strumenti azzurri, cioè, se lo vedi è uno spettacolo acceso, veramente bello. A me guarda, gli amplificatori mi piacevano proprio perché avevano gli strumenti, ma adesso ti lascio Roberto perché mi ha birato la lingua e mi sono dimenticato di non portare il cane. Ciao, ci sentiamo, buona serata. Io pensavo di già turrato, infatti ho detto già sono così veloce. No, sono manco andato, dai. Adesso ci abbiamo preso quel discorso che mi interessava anche a me, quindi mi sono trattenuto. Sì, dai, vediamo se c'è qualcuno sul 20 qua, che stranamente siamo sul 20 oggi. Avanti che vuole entrare. Buonasera, sono Andrea Maniconio di Ussi. Chi sei? Andrea Maniconio di Ussi. Andrea Maniconio, mi sembri Carlo. No, non sono Carlo io. Io tanti anni fa c'avevo il baracchino e parlavo alla gente di qua di Sassari anche in tutti gli altri giorni. Adesso non sono più in linea. Dove sei tu? Ti stai arrivando a fondo sala? Sono vicino a te. Chi sei? Non ho capito chi sei però, se lo vuoi dire. Dopo spiegazioni, non posso risponderti, però sono il vecchio Andrea Maniconio. Andrea Maniconio, ma ci conosciamo le persone? No, no, niente, vabbè, lascia perdere, io non ho manicomio questo. Andrea, roba, lascia perdere, manicomio, noi sì. Niente di quello che stai dicendo tu. Vai Andrea, finila, Claudio Sparviero, ancora vivo, ci pensavo che eri morto. Sembra stato, adesso ti ho conosciuto subito Sparviero. Come stai? Ciao Andrea, benissimo, invecchiando come te però stiamo bene, stiamo benissimo, e tu? Ehi, senti avanti dai, ogni tanto già mi viene questa piccolina di... Però adesso non è più voglia, ci ho tolto anche tutta le cose di baracchino, tutto quanto, però sono fuori, sto lavorando la parte di capitano. Già me l'ha detto Antonello, ogni tanto ci nominiamo con Antonello in vecchi tempi. Un abbraccio grande Andrea, mi ha fatto piacere ascoltarti dopo tanto. Sono intervenuto che stavo cucinando. ho detto, mia Andrea, la matta che te ne varia. È un carissimo amico Robert, di vecchia data, un grande CB, ci siamo divertiti da morire, amico di Antonello, è lì a casa di Antonello. Ciao Andrea, un abbraccio grande, salutami a tutti. Eia, quando vuoi già lo sai, e adesso Antonello lo devi e ci incontriamo, mi fa anche molto piacere. Ehi Andrea, quando volete, non c'è problema, ti faccio salutare dagli altri. Ciao, un abbraccio. Grazie, ricambiate anche a te. E infatti ho detto, questo mi sembra il segnale di Antonello, infatti ha detto siamo vicini, ho detto, come fai a sapere che siamo vicini se non ci conosciamo? Infatti adesso qui ho collegato il discorso, sei a casa di Antonello. Ci sei? Aspetta un attimo, che sta parlando con il cane. È un casinista, era roba. Ciao Luca, e beh, no, non lo conosco, almeno non credo di conoscere. Ah, oh, tu manco c'eri. Perché tra Andrea Manicume, ho detto, noi conosciamo a Luca Manicume, non Andrea. Ma tu quasi più casino di me però. Io sono. E allora sono Andrea Manicume, è diversa la musica. vabbè, anche a me chiamo Manicume, perché c'è un casinista. E allora ci possiamo anche toccare la mano. Io tu pochi sono io, e lui ormai non se lo ricorda. Non me lo ricordo, io ho perso anche tutto il giro, però già mi ricordo anche degli altri, però adesso a ricordarmi, dico la verità, non è che mi ricordo tutti, però quelli più che ci tenevo da coso li sentivo ogni giorno, quello sì. Vabbè, là. Poi ti ricordi di mio fratello di Stefano. Chi Stefano? Il fatto di Pomponio. Ah, ok, adesso mi è venuto in mente, ho capito. Sì. Eia. Roberto, quanti anni ci sei Roberto in frequenza tu? Mi hai battezzato tu Luca nel 2004, novembre 2004. 2004, 2022, allora, 16 anni ci sei quasi. 17 anni ho fatto a novembre. Perché 17 anni? Siamo nel 2022. Vabbè, ma io sono entrato a novembre del 2004, a novembre del 2021 ho fatto 17 anni, cioè 17 anni e un mese, più o meno, e a novembre del 2022 farò, no, scusa, nel 21 ho fatto 17 anni, nel 2 novembre 2022 farò 18 anni. E ci sono dal 90, 91 mi pare, 92 se non mi ricordo, forse 92, comunque 91 o 92. Anche se devo dire, anche da ragazzino piccolino, 13-14 anni, avevo piccoli walkie talkie, o poi ho preso un baracchinetto così, diciamo anche prima, anche se non avevo l'antennina non facevo niente, però ce l'avevo un piccolo baracchinetto anche prima, dagli anni, diciamo dagli anni 80 in su, poi ho fatto altre cose. Vabbè, tu c'hai una marcia in più di noi adesso. Non ho capito. Ho detto che tu hai una marcia in più di noi. Vabbè, anche tu Luca, adesso io, è andata bene per me, ma anche tu già ci riuscirai piano piano, dai, non ti preoccupare. Comunque, se c'hai tempo, guardati un bel film oggi Luca, alle 9:10 a Rai Movie, se ti piace il genere, è veramente bello. Rai Movie sarebbe? Che canale? Canale 24. Ma sta c'è anche la mia compagna, che c'era un film bello, però non mi ricordo dove. Vabbè, c'è anche Forrest Gump, quello è un bellissimo film, ha vinto non so quanti Oscar. Questo parla la storia, se vuoi te la dico veloce, di questo tipo che è storia vera, è quello che è riuscito a decriptare tutti i messaggi che davano i tedeschi durante la guerra, eccetera, eccetera. È stato il pioniere dell'informatica, da lì poi è nata la Apple, eccetera, eccetera, e hanno mezzo rubato delle idee, e poi si è ammazzato questo qua a 41 anni, ed era un ingegnere che ha fatto il primo computer e cose, ed è proprio ambientato nella guerra, ma veramente, e ti spiega tutto, ha salvato migliaia e migliaia di persone questo qui, l'hanno arrestato falsamente, poi infatti l'ha liberato, e quando era nel carcere lo stavano interrogando e ha raccontato tutta la storia, alla fine l'hanno liberato, ha detto che anche questo ha salvato migliaia, centinaia e migliaia di persone, così lo arrestiamo per un dubbio, l'hanno anche liberato, e poi lui si è ammazzato, guardatelo, è veramente bello, canale 24. Adesso vediamo. Vediamo l'amico Andrea, se c'è ancora. Ma sei a casa tua tu Lu? Sì, aspetta, ma c'è già Antonio Bombolino, se entra. Io dico che siamo al 20, vediamo. Bombolino, Oh, altro guarda che segue entra, siamo al canale 20. Comunque stanno aumentando il contagio, vedo che già saranno in tutto, sono obbligatoria la mascherina FFP2. alla San Bifi, Luca, ma tu stai a credere tutte le balle. I contagi sono aumentati perché sono aumentati i tamponi, se tu fai 800.000 tamponi ci sono 50.000 contagi, se ne fai 100.000 i tamponi ce ne sono di meno o di più, cioè tu devi fare i rapporti, li devi fare in base a quello che avevi prima, cioè se erano prima 20.000 contagi, sì, ma hai fatto 50.000 tamponi, adesso ne hai fatto 800 milioni di tamponi, che discorso hai visto, ogni lì soffre di tamponi la gente, per forza che ce ne sono di più di contagi, è normale Luca, stanno raccontando balle alla gente, vai, anche quelli vaccinati vanno a farsi il tampone, ma se sei vaccinato che problema c'hai, deve essere protetto, per cui lasciamo il discorso Luca, già li ha smerdati tutti l'altro giorno uno, un professore ha detto, ma come fai a fare un raffronto con l'anno scorso, tu come quest'anno, se l'anno scorso facevi 10.000 tamponi, adesso ne stai facendo 10.000 al giorno di tamponi, che cacchio di discorsi sono? Il casotto che la gente, quella che è vaccinata è convinta di essere immune, invece non è così, l'hanno dimostrato che prima che succedesse, l'hanno detto dall'inizio, ci saranno le varianti, come tutti i tipi di virus, ci sono le varianti, di cosa stiamo parlando, arriva 50 vaccini tu, adesso c'è la terza dose, Israele c'è già la quarta dose, poi faranno la quinta, la sei, ogni sei mesi ti dovrai fare un vaccino, chiamiamolo vaccino, dai, perché non esiste, non è un vaccino, ci sono altre terapie e uno si cura, se si prende le cose gravi ci sono le cure, l'hai vista ieri alla televisione quella tipa lì che ha curato un medico di base, dice come mai non lo pubblicizza nessuno, 800 pazienti li ho curati io con una non so cosa, cacatruppina, non so che cosa li metteva, e un antibiotico e li ha curati, io c'ho un amico che è tornato dalla Nigeria e ce l'ha preso, l'hanno curato e si aveva già preso anche la malaria in Nigeria, l'hanno curato con la medicina che gli hanno dato per la malaria, tranquillo e felice, e non ha subito nessuno, certo se sei malato, c'è patologie, anche col vaccino muori, che cacchio stiamo, ma muori meno, si muore, ma di cosa stiamo parlando, e finito. Purtroppo un casino. Io sono stato costretto perché altrimenti non posso portare mia madre all'ospedale, ti chiedono il green pass, e ogni volta noi possiamo dare un po' a pagamento. Lo so, ma la cosa bella è che adesso quelli vaccinati stanno saturando le farmacie, andate mia figlia a prendere il coso, una medicina, se ne è fuggita, dice c'era la fila fuori in strada, hanno fatto vedere a Canale 5 a Milano, c'era a Palermo, c'era gente alle 5 del mattino, un altro alle 3 del mattino, sono il primo, sta aspettando che alle 8 e mezza per la farmacia, è facile, ed è la vaccina lì, sì, anche la terza dose, ma non mi fido, ha detto, ma di cosa stiamo parlando lui, io, stanno creando il panico alla gente. Rometto, scusate, vi saluto anche da Luca, vi saluto veramente e vi faccio gli auguri. Mi era fatto piacere di sentirvi perché mi piace queste cose, però adesso ormai non ho più tempo di queste cose qua, però già capiterà. Vi saluto e voto all'ultimo dell'anno. Ok, vi lascio anche il vostro argomento di parlare. Ciao e ci sentiamo. Sì, ciao Andrea, ben sentito per la prima, anche a te, ti ricambio gli auguri e buon tutto, dai, vai Luca. Sì, ciao Marinco, la prossima, buona anche a te, auguroni, ciao. Quando ti arriva lui, questo che ha parlato adesso, questo Andrea, Luca? È forte, tipo quanto a te mi arriva. Antonello il 9-6, ma detto, chi è questo qua? Dice, siamo vicini, è entrato, ma chi è quello? Certo, ci dicono, no, ci dicono, poi alla fine ho visto il segnale, ho detto, chi è cosa? Antonello, da casa di Antonello. Ha detto, possibile che arrivi così forte qua, 9-60, poca niente, anzi, solo lui adesso arriva e quando attacca Carlo, adesso Carlo arriva a me 9,55 con un dipolo messo in verticale e con 5 watt, 9,55, figurati quando mette l'antenna quella J-Pod di Claudio, quello sfascia tutti, perché dice che a Muros arriva più forte di me. Vabbè, ti passa anche Carlo, ciao Carlo. Ciao, ciao, Luca. Ti passa proprio, ti sta parlando sopra, allucinante, arriva forte qua. Vabbè, lui c'è da dire, oltre che c'ha una posizione spettacolare, è molto più vicino a te, cacchio, è in altissimo. Io l'ho detto, Carlo diventerà il numero uno. Ciao Carlo, ben sentito. Sta arrivando a bomba 9,55 con un'antenna non dedicata, diciamo, non è una 5 ottavi, anzi, con la J-Pol è una 7 ottavi di 8 metri e mezzo. Figurati, al Muros, mi schiaccia anche a Muros, e io sono più vicino di lui. Che ho montato la J-Pol. Allora, adesso sì, con i picchi arrivi a 9,60. Poi la J-Pol è piazzato, Carlo. Sì, signore, stamattina. Sul 3 mi arrivi, prova tu, Rob. Hola. Tu sei poco a poco più basso, ma che tu c'è un bel segnalone, sei in mezzo, tra il 3 e il più. Sì, arriva forte, Carlo, mi sa che è uno dei più forti, eh. non so se andare a giocare con Franco o con Salvini, ma io quando ti arrivo a te sicuramente ti arriverò a fondo scala. A Carlo, Carlo ci sei? Sì, dimmi Robè, che un attimino stavo rispondendo. Come ti arrivo io adesso con questa antenna? Guarda, a fondo scala qua, dai, siamo troppo vicini noi Robè, e quindi il controllo è sempre quello, radio ottima, segnale a bomba a fondo scala. Adesso voglio vedere, peccato non c'è coso Mirko di Alghero, per vedere come sei aperto per Alghero. Se spari ad Alghero ammazzi a tutti, non c'è per nessuno, perché tutta la zona del mare ammazzi a tutti, dalla parte di Claudio e di Muros ammazzi a tutti. Adesso vediamo Alghero, così diventerai tu la torre di controllo numero uno. Vediamo che non me la butti giù il vento, perché diciamo io sono molto aperto ed è un pochettino alta quell'antenna, capito? Però già è bella stabile, capito? Ci ho messo il tubo grosso sotto, da 50, poi uno da 40 e poi il restante l'ho infilato tutto dentro perché non ce la faceva a tirarla su. E la cosa, il palo quanto è alto? Guarda, dal livello del tettuccio è 2 metri e qualcosa, più di 2 metri, perché io sono 1,76, quindi ci sono arrivato con la punta delle dita, capito, a tirarla su, e dovrebbe essere 2,20, 2,30. Sì, quindi di grosso, non hai bisogno di tirarti né niente, bene. Complimenti, dai, ottimo segnale, figurati, sta uscendo pulito pulito, guai se tu devi mettere qualcosa di lì, sfacci. Ok, cioè va bene, visto vai. Tanto lei quanto ti arriva a coso, Carlo? 9,30 la verità è. Solo? Beh, quanto vuoi di più, scusa, A me mi arriva quasi 9,6, cioè 9,55 e quei picchi arriva a 9,60, il segnale è tuo, cioè. Oh, non lo so, la verità a me mi arriva così. Comunque io c'ho... Il segnale è così, cosa ci posso fare io? Ma ti stai aiutando tu, Antonio? No, la verità no, è aiutato niente. Normale. Prova, Carlo, quanto ti arriva Antonello a te? Prova, ciao Antonello, prova un po' a fare un passaggio. Guarda, lo passo io. Sì, prova. E Antonello, diciamo che passa a tutti, perché ho sentito lui sotto, ho sentito Roberto, forse Luca, però Antonè è fondo scala qua, quindi niente, mi arrivi a bomba. No, io non ho parlato, ma adesso siamo 5 watt, adesso con un pompone che è stato 200 watt. Sì, domani mangiano. Allora, po'? No, 200 watt non neanche minimamente. Andiamo a l'incomio. Non penso. Lo passo, Carlo, a Antonello. 1, 2, 3, prova radio. Antonello. Quindi, Carlo. Siamo in due. Non puoi essere bruciato uno o l'altro. Quindi, lui è casa mia. Non è a Ussi. A un certo punto. Carlo, che è passato? Io ho sentito tutti e due che parlavate, ho sentito Carlo, lo passo a Antonello e poi ha parlato Antonello, quindi però sì, quando l'hai fatto stava parlando lui, quindi l'hai passato, però se parla lui poi si sovrappone, capito? Perché siamo troppo vicini secondo me. Sì, ma quello che non riesco a capire, come mai lui a te ti arriva, cioè Antonello tu gli arrivi 9,30, a me mi arrivi quasi 9,60. Vabbè, è più aperto verso di te, Carlo, siete attaccati. È che Antonello non è attaccato, forse è pure più vicino. Ma cosa stai dicendo? Cosa stai dicendo? Sei via lì via lui. Si è mai detto che è dietro il bullying lui. Ma cosa è dietro il bullying? È dietro, è lì, di fronte a te, è dietro la casa di Gianni Pazzola. No, io pensavo fosse dietro, giù verso dove ci sono le poste. Ma cosa si dice lì, attaccato a te, attaccato a te. Comunque adesso quando ti arriva Carlo, a te Claudio. A tutti qua, Santonello, a te, a tutti, potete attaccare quello che volete allo stesso segnale di Claudio di Muros, 9 più 40. No, lo sapevo, Claudio, già arrivava forse prima, figurati, ho detto, se lui adesso è aperto verso Alghero diventa lui torre di controllo. E io sono contento di aver passato la mano a Carlo, quindi problemi non ce n'è. Ha una bellissima zona, ha una buonissima antenna e qua non ce n'è per nessuno, 9 più 40. Domani, Claudio, buonasera, levo quella cosa che mi hai detto. Io l'ho messa perché avevo letto così sulle istruzioni, però mi sa che levo tutto, tiro giù il cavo e lo lascio giù pendente. Se è possibile farlo a misura, se è possibile, se non ti è possibile lascialo in bando a terra, non va bene lì quello che hai fatto. quello che hai fatto andava sotto dove c'è l'attacco del PL, allora è un'altra cosa, ma lì non va bene, è troppo distante, capito? Ok, va bene, domani sempre che abbia il tempo, insomma, queste regolazioni già le farò sicuramente, però mi sembra che stia andando bene, perché stamattina ho provato anche in SSB, mi hanno risposto e non essendoci propagazione ho detto caspittina, questa roba va bene. Non c'è tortati, io ce l'ho e funziona bene, dimmi tu. Aspetta, parla. Salta Claudio. Ciao Claudio. Dimmi chi sei? No, già lo sa che l'ha detto, non è un problema. Diglielo, no? No, ma già mi fa, già poi già ci mettiamo in contatto, no Claudio? Dimmi, camera di Isabella. No, già lo sa, non c'è problema. Sentito, è là. Certo, il mitico amico mio, Andrea Maincomio. Carissimo Andrea, io piazza tutto Andrea, che facciamo come gli altri tempi. No, ma ce l'ho sempre quell'impianto famoso qua, tranquillo, ce l'ho sempre. Se mi piazzo tranquillo, ce lo so dove abito io, la zona più alta, non ne dico i problemi. E poi c'è di fronte a me adesso, quindi problemi non ce n'è. Vabbè, eravamo sempre di fronte, però adesso sono ancora più in alto, sono sulla Serra Secca, io do Pontonello, capito? Quindi sei proprio di fronte a me, sì, ce l'ho di fronte, Uri, Usini, Tissi, Muro, Scargeghe, tutti quelli ce li ho di fronte. Gappa, va bene, ok, comunque Carlo, per me sei una bombetta, eri 9,35 con picchi a 9,40, adesso sei 9,40, con picchi a 9, quasi 45. Io sono contento se esco bene con pochi watt, comunque aveva ragione Roberto, praticamente dall'ufficio postale di via Luna e Sole io abito più su nell'altra traversa, salendo dall'ufficio postale, praticamente la seconda traversa, ed è precisamente via Salvatore Dau, capito? Praticamente il mio palazzo è tra via Dau e via degli Astronauti, dove c'è quel parco delle suore, capito? Dietro io il parco delle suore, lì non è costruito, è tutto aperto. Qui ho ragione io, sei di fronte a lui, tu a Roberto lo vedi, mentre Antonello non lo vedi. Sì, esatto, Antonello è più in alto e è molto più indietro, diciamo, rispetto a Roberto. Non pensare che sia molto più in alto, perché quella è la piana lì, capito? Non pensare che sia molto più in alto di Roberto. Comunque a Roberto tu lo vedi, mentre Antonello no, tutto lì, capito mi hai? Comunque va bene, dai. Ottimo per la truppa, sono contento, togli quell'affare che mi hai fatto vedere nella foto, lascia il cavo singolo, ok, e apri appena la J-Pol, più faccia a te, perché è leggermente spostata, e basta, non toccare altro. Ok, ascolta, diciamo io l'ho puntata con la bussola nord, capito? Cioè ho messo, diciamo, la parte che utilizziamo più corta per la regolazione, no, quella ho puntato verso nord, quindi praticamente la devo girare, diciamo, più verso Monte Oro o più dalla parte tua? Carlo, rispondo, intervengo io. Allora, tu sei tutto aperto, devi, da qualunque parte la giri va sempre bene. Se tu sei leggermente scoperto verso la zona, verso Castelsardo, ti conviene girarla verso lì, oppure verso Alghero, se vuoi pompare più su Alghero, perché quello lì è leggermente più predominante in quella direzione lì. È inutile che tu lo metti verso Sintino, lì non hai nessun problema, non hai ostacoli. Però se per dire verso Alghero c'è qualche punto che magari non riesci a prendere, magari te lo indirizzi in quella zona lì, perché qualche CB c'è ancora ad Alghero, magari se poi vuoi fare verso Santa Teresa ci sarà orienti verso quella zona lì, sperando che ci sia qualcuno che ti ha, oppure zona verso Buduzò, quelle zone lì, Ozieri, lì a Ozieri c'è qualche radiamatore, qualche CB. Ho capito Roberto, e adesso farò qualche prova, tanto a girarla ci vuole poco, cioè basta mollare un attimino appena e la giro piano piano e poi restringo il tutto, non è quello il problema. Farò sicuramente sì qualche prova, però diciamo che già sto uscendo bene, ho misurato col rosmetro e mi sale proprio da zero, si muove appena appena la lancetta, non arriva nemmeno a uno. Oh signori, interrompo io, scusatemi un attimo, io adesso devo andare via, vado a mangiarmi qualcosa e poi devo guardare la televisione. Vi saluto a tutti, saluto Carlo, è l'ultimo entrato, Claudio, Luca, Antonello e l'amico di Antonello Andrea. Io faccio correnti, dai, ci sentiamo eventualmente domani. Ciao ciao. Ciao ciao Roberto, ci aggiorniamo. Ok, vai Carlo. Roberto, ci sentiamo alle prossime, grazie del questo. Va bene, va bene, sì, togli quella cosa lì, metti il capo normale, senza fare giri e rigiretti, e basta, la lasci stare così. Hai un ottimo segnalone, ma soprattutto sicuramente hai un'ottima ricezione. Qua sei fortissimo, non ci sono segnali che possono darti fastidio, quindi stai tranquillo e sereno. Penso anche da Luca, da Roberto, da Antonello, insomma un po' da tutti hai un segnalone favoloso. Sì, Luca già lo sento bene, in linea d'aria siamo vicini con Luca. Sia quando trasmette diciamo da qui sotto di me, o lui mi ha detto che c'è anche un'altra casa dove può modulare da lì, ma io l'ho sempre sentito bene Luca. Luca mi arriva molto bene, 9.5 dalla postazione della ragazza, che c'è un'antenna nel Poggiolo, 9.15 mi arriva qua, quasi 9.20 mi arriva da casa lì della mamma, quindi arriva molto bene. Va bene Carlo, dai, io ti lascio, mi allontano perché anch'io vado a vedermi un po' di TV e se coincide alle tue simili, fai quel lavoro, poi mandami le foto e fammi sapere, ok? Yeah, va bene, ti ringrazio Cla. Sì, se c'è Antonello, voglio salutare Antonello un attimo. Ciao comunque Claudio, alle prossime, vai pure tranquillo. Ciao, ciao a tutti e due, ciao anche Antonello e tutta la truppa, ciao ciao. Non c'è Antonello, Luca ci sei ancora? Nemeda, chi è in ascolto? Ciao, io chiudo, Carlo, ci sentiamo alle prossime.